passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 35 minuti in questo momento, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it, sentiamo subito i titoli dell'ultimo TG, TG2. Minacce e insulti a Obama dal Qaeda, messaggio via internet del numero 2 al Zawahiri, sei un nero al servizio dei bianchi ed Israele, hai tradito le origini islamiche. Erba torna a parlare Olindo, mai rivendicato la strage, nella perizia psichiatrica mi sono immedesimato nell'assassino. Azzuz chiede un maxi risarcimento, Castagna, Olindo e Rosa smettano di mentire. In gravi condizioni il figlio 16enne del pregiudicato ucciso in un agguato a Palmi in Calabria, il ragazzo colpito dai proiettili alla testa, operato, è in coma. 6 rapinatori arrestati in Campania grazie alle telecamere, colpo ripreso in tutte le fasi in un'agenzia di scommesse, clienti minacciati e terrorizzati. A Los Angeles anteprima del film Twilight, fan in delirio per il vampiro Robert Pattinson, definito il più bello del pianeta, sale la febbre per l'uscita venerdì, tutto esaurito nelle sale americane e in buona parte di quelle italiane. Bene, erano i titoli del TG2. Non abbiamo parlato finora alla Zanzara del caso Thyssen, la decisione del GUP di rinviare a giudizio, dietro richiesta del PM Guariniello di rinviare a giudizio l'amministratore delegato della Thyssen per omicidio volontario. Un anno fa la tragedia nella fabbrica torinese. Voglio dire qualcosa controcorrente, non tanto io, quanto piuttosto suggerirvi degli interventi sulla base di alcune cose che ho letto questa mattina. Per esempio un'intervista al ministro Scajola su Repubblica, in cui il titolo è in questo modo: il ministro attacca i giudici, difficile credere nell'omicidio volontario. Sinceramente, dice Scajola, con tutto il rispetto per il procuratore e per il GUP torinesi, non conoscendo le carte processuali, mi riesce difficile immaginare che l'amministratore delegato della Thyssen abbia voluto provocare la morte dei suoi dipendenti. Agli altri indagati è stato infatti contestato l'omicidio colposo ed è un'accusa gravissima, intendiamoci. Poi una editoriale sul Riformista: non tutti gli omicidi sono volontari, in cui si scrive che sarà complicato provare l'omicidio volontario, e anche un'intervista a un altro giornale di Giuseppe Di Lello, ex PM del Pool di Palermo, senatore del Partito di Rifondazione Comunista: non credo che reggerà il reato imputato ai capi della Thyssen. Sentiamo Studio Aperto. La strage di Erba, in aula prende la parola Olindo per ribadire la sua innocenza. La confessione: mi sono solo immedesimato nell'assassino, dice, e aggiunge: per tutti io sono già il mostro. Azzuz vuole l'ergastolo per i coniugi Romano e oltre 2,5 milioni di euro come risarcimento. Giallo di Udine, cresce il mistero, negativa la prova dello stub per i due indagati. Sul convivente di Tatiana Tulissi, Paolo Calligaris e il figlio minorenne, non è stata trovata traccia di polvere da sparo. Resta la pista del tentativo di rapina finito in tragedia e a Manzano aumenta la paura. Io non posso dirlo, dillo tu. Svelato il contenuto del pizzino passato in diretta TV dal senatore del PD La Torre a bocchino del PDL. Un suggerimento per attaccare Donati dell'Italia dei Valori. La Torre precisa: è vero, l'ho scritto io, ma non gliel'ho passato. I dipietristi insorgono. Al-Qaeda insulta Barack Obama. È un servo negro dei bianchi, dice al-Zawahiri. Il suo piano per l'Afghanistan è destinato a fallire, aggiunge il numero 2 dell'organizzazione. Bene, questi erano i titoli principali di Studio Aperto sulle minacce di al-Zawahiri nei confronti di Obama. 800 24 00 24. E non c'è dubbio che uno dei temi di oggi, a parte la vicenda all'Italia, perché il ministro Scajola, di cui parlavamo prima, ha detto che può andare a CAI però per non meno di 1.052 milioni, e questa è l'ultima novità, cioè dire, i soci di CAI devono sborsare questa cifra se vogliono naturalmente ottenere gli asset che richiedono di Alitalia. Uno dei temi è sicuramente quello dell'Italia come paese dei vecchi, quelli che non tramontano mai e quelli che quando c'è bisogno però scattano sull'attenti e sono pronti all'ennesima battaglia, magari chiamati nell'emergenza come accaduto per per Sergio Zavoli, come sapete nominato, designato da alcuni partiti come presidente della commissione di vigilanza RAI. E proprio Zavoli, che addirittura alla RAI di cui è stato presidente, descrisse l'alluvione di Firenze del 1966. A quest'ora erano arrivate le prime immagini dell'alluvione da ogni parte d'Italia. Da Firenze bloccata uscirono solo quella sera queste fotografie dell'operatore Barneschi scattate da un terrazzo della nostra sede. Firenze, nel disastro che coinvolgeva mezza Italia, era un'isola. E questo è Zavoli nel 1967, che descrive l'alluvione di Firenze dell'anno precedente. Ma certamente uno dei grandi vecchi ultimamente tornati di moda in un paese che da questo punto di vista non volta mai pagina, e però nello stesso tempo diversi vecchi, chiamiamoli così, continuano a essere una risorsa incredibile, perché non c'è distinzione per quello che riguarda l'intelligenza, e qui parlo in generale naturalmente. Uno dei grandi vecchi tornato di moda è sicuramente Antonio Matarrese, tornato ai vertici del calcio italiano. Lo fece anche con una dichiarazione di questo tipo, sentite. 10 anni fa il presidente del consiglio era Prodi, Pippo Baudo dirigeva il Festival di Sanremo 10 anni fa e Albano cantava. Quindi questo è il paese, che ci meravigliamo noi? Questo è il paese, di che ci meravigliamo? Straordinario Matarrese. E allora Pippo Baudo, che fu chiamato a un certo punto nella difficoltà di trovare qualcun altro di nuovo a condurre Sanremo. Dicono qui i giornalisti che stanno uscendo agenzie e tutto il cerchio costituzionale politico si sta schierando, chi contro, chi a favore di me. Io, guardate, non ho voluto mai fare un festival politico, perché io voglio fare un festival della canzone. Questi politici che si interessano tanto del problema della canzone, il problema del festival di Sanremo, vi prego, siate seri. Occupatevi dei problemi del paese, che sono tanti. Guardate, ma insomma, un Baudo che si permise addirittura di dare bacchettate ai politici tornato alla guida del festival di Sanremo. E poi il governo di centrosinistra, che nella passata legislatura si affidò in maniera particolare ai voti, ricordate, di Rita Levi Montalcini. Noi abbiamo il diritto costituzionale di esprimere il nostro parere. Inoltre vorrei chiedere a quanti mettono in dubbio questo diritto che ci dicano. E poi naturalmente Cossiga, protagonista criticato e esaltato anche recentemente sulla vicenda della scuola. Essendo stato io, tra le altre cose, salvo che presidente della Camera sono stato tutto, è stata una vera botta di vita sentire che già le slogan che temevo ormai dosueti. Sapere che la piazza non mi ha dimenticato e che qualcuno si ricorda di me. Cossiga boia, Cossiga assassino. Beh, insomma, Cossiga. Comunque la pensiate, sulla breccia ci sono sempre queste persone e tante altre ancora di una certa età. 800 24 0024. La politica invece è appassionata ai pizzini. Trovo incredibile questa vicenda. Un fogliettino scritto da Nicola Latorre del Partito Democratico a Italo Bocchino del PDL, un suggerimento: tira fuori, io non lo posso dire, tira fuori la vicenda di Pecorella alla Corte Costituzionale, diventa una sorta di mistero della politica italiana, con Latorre, non solo per questo naturalmente, che si dimette per far spazio a Zavoli all'interno della Commissione di Vigilanza RAI. La 7 Omnibus, dove tutto è avvenuto, lo sceneggia in questo modo. Grazie Antonio Ricci, grazie Ezio Greggio, grazie Iacchetti, ovviamente per cortesia facciamo entrare il reperto archeologico così, ecco, grazie, con la musica di X-File, lo faccio vedere a favore di camera, così svediamo parte dalla busta il reperto numero uno, a favore di camera, se potete inquadrarlo stretto, vi lascio uno sfondo, il pizzino che appunto abbiamo trovato in studio, dice io non posso dirlo, ma il precedente della Corte Costituzionale, punto di domanda, Pecorella, punto di domanda, ed è questo che è rimasto qui nello studio alla fine della puntata. Eccolo qua. E con questo abbiamo risolto, vedo Polito che già golosamente dice me lo passi per il mio giornale, io te lo passo volentieri, perché tanto non mi sembra che poi questo sia un problema, diciamo così, fondamentale della politica italiana. Ci sono scambi, contatti fra le parti, come giusto che sia. E questo era Piroso. 18:45 la storia del pizzino. Ci sarebbe da discutere della proposta di legge di Alfano, che sembra però tramontata, doveva essere presentata oggi in Consiglio dei Ministri per l'opposizione di AN e della Lega. La messa in prova per chi rischia fino a 4 anni, e fino a 4 anni ci sono diversi reati: furto semplice, falso in bilancio, frode informatica, truffa, con il lavoro che cancella il reato per gli incensurati, naturalmente. Ma sembra che tutto sia tramontato, già si parlava di nuova amnistia, eccetera eccetera. Ma naturalmente non ci possiamo far mancare l'intervento di Silvio Berlusconi ieri a Ballarò al telefono. A un certo punto prende il telefono e duetta soprattutto con Epifani e con Di Pietro, che non era presente. Sentiamolo sulla vicenda Di Pietro. Guardi, noi opposizioni siamo poche occasioni per parlarci. Non abbiamo voglia di fare cazzotti sul Titanic. Per quest'anno, in via di emergenza, possiamo metterci a discutere e vedere cosa è meglio fare per sto paese a partire dalle condizioni più deboli? Ecco, io le faccio questa domanda. Le rispondo immediatamente. Sarebbe la cosa assolutamente auspicabile se ci trovassimo di fronte ad una opposizione che avesse nei nostri confronti l'atteggiamento che dovrebbe avere una opposizione socialdemocratica. L'opposizione, così come è fatta attraverso i suoi protagonisti, invece si rivolge a noi in termini inaccettabili. Il capogruppo alla Camera dei Deputati Franceschini mi ha accusato di non conoscere l'ABC della democrazia. L'alleato Di Pietro mi ha definito la settimana scorsa come l'assassino della democrazia. E questo non era Di Pietro, naturalmente, ma era Berlusconi che risponde all'invito di Bersani di parlare con l'opposizione. 800 24 00 24. A proposito di grandi vecchi, non vorrei fare un'offesa a Paolo Cirino Pomicino. Buonasera. Buonasera a lei, anche perché in realtà mi sono ringiovanito dopo il trapianto. Assolutamente. Quanti anni ha guadagnato, le hanno detto i medici? Ne ho guadagnato 16. 16 anni? 16 per diciamo la generosità del mio sconosciuto donatore. Senta, oggi sembra che Zavoli ce la possa fare a diventare presidente della commissione di vigilanza Rai, e si riparla di nuovo dei grandi vecchi cui tutti si appigliano a un certo punto quando bisogna risolvere un problema. La stupisce questo? No, non mi stupisce, anche se credo che ormai ci sia la necessità delle grandi associazioni che proteggono le specie in via di estinzione, perché è vero che la prospettiva del presidente Berlusconi che ci dà a tutti è quello di arrivare fino a 120 anni, ma ognuno di noi rischia di estinversi se non fanno presto ad avere il massimo del nostro contributo. Che cosa voglio dire, al di là dello scherzo? Sì. È che non c'è dubbio che dinanzi ad una formazione parlamentare che per larga parte non è preparata adeguatamente, ma non per colpa delle singole persone, perché non hanno fatto la gavetta nelle istituzioni, nei partiti, come si faceva una volta, è ovvio che hanno qualche difficoltà in più. E naturalmente quando c'è bisogno di trovare gli spunti necessari per governare commissioni delicate come quella della vigilanza, si richiama appunto in servizio Sergio Zavoli, ma se si tratta di mediare si richiama Gianni Letta, che certamente non è un giovanissimo. Oppure quando bisogna condurre il Festival di Sanremo si richiama Pippo Baudo. Sì, appunto, la verità è che, come al solito, in questi 15 anni si fa tanto parlare di meritocrazia, ma poi in tutti i settori, incominciando dalla politica, il cui primato è sempre forte anche quando è in negativo, però poi alla fine la selezione in realtà non c'è più, c'è solo la cooptazione, e quando la cooptazione prevale la cortigianeria, quando prevale e dunque alla fine possono prevalere i grandi vecchi perché hanno più esperienza di quelli che sono. Senta, anche lei è in ballo ancora perché è consulente del ministro Rotondi su Bari. Io non sono consulente, io sono il presidente del comitato del presidente gratuito, naturalmente, sì, del Comitato di Controllo Strategico per le Pubbliche Amministrazioni, e stiamo tentando di lavorare sulla riforma del bilancio. Che fate? Perché sembra una commissione dal nome un po' lungo, sai, quei nomi un po' barocchi. Lungo, e infatti è un po' politichese. Esatto. La cosa invece è molto semplice. E cioè si tratta in realtà di riformare il bilancio dello Stato per renderlo più adeguato alle azioni di governo, da un lato, e dall'altro rivisitare le poste di bilancio, perché se vanno colpiti gli sprechi non vanno poi colpiti però le postazioni di bilancio, che sono essenziali perché i ministeri possano funzionare. Vabbè, insomma, non ho capito molto cosa funziona questa cosa, però sicuramente ci sarà. Sicuramente c'è da lavorare. Però le chiedo un'altra cosa che riguarda sempre il giovanilismo, e perché insomma qualche tempo fa ci sono stati scritti anche dei saggi, no, sull'Italia, e troppi vecchi ancora, l'Italia in ritardo da questo punto di vista rispetto agli altri paesi. Mi sembra che lei la pensi molto diversamente. Ma vedi, in una società moderna c'è bisogno di avere da un lato la freschezza della giovinezza, ma anche l'esperienza delle persone over 60. È sciocco immaginare la gerontocrazia e altrettanto sciocco parlare del giovanilismo. Tutti siamo stati giovani, grazie a Dio, speriamo che tutti diventiamo vecchi. Ma tutti, quando eravamo giovani, eravamo peones, tutti non capivamo poco più che nulla quando abbiamo incominciato, ma poi avevamo una scuola, ed è questo forse che oggi manca in questa stagione. La ringrazio molto, grazie a Paolo Cino Pomicino. Andiamo a sentire un ascoltatore. Mario, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera a lei. Io le ho scritto questa mattina una sua affermazione ieri. A un ascoltatore, lei, sì, ha detto, sì, lei ha detto, dice, ma perché Orlando sì e Pecorella no? Sì, continuo a pensarlo. A me pare strano che lei lo pensi, perché Orlando può essere benissimo fazioso, perché deve presiedere una commissione di garanzia, e quindi può benissimo essere fazioso. Sì. Invece io mi auguro che un presidente, un giudice della Corte Costituzionale non sia fazioso. Sì, no, ma io parlavo di metodo, è chiaro che i due compiti sono diversi, no? Il compito del presidente della Commissione di Vigilanza e il compito del presidente di un membro della Corte Costituzionale. Metodo, io non metto lingua. No, io parlavo di metodo, siccome il metodo più o meno è lo stesso, cioè ci vuole un accordo in quel caso in sede parlamentare, nell'altro caso in seno alla Commissione, e siccome da una parte c'era stato un veto da parte del centrosinistra e il centrodestra ha scelto un altro nome, mi sembrava bizzarro che la stessa cosa non potesse avvenire per quello che riguarda la vigilanza RAI. No, ma normalmente nella vigilanza RAI, tolto il caso di Taradas che fu messo a capo della vigilanza nel primo governo Berlusconi, se non ricordo male, si facevano prigionieri, e tolto quel caso, diciamo, le commissioni di garanzia sono presiedute da uno dell'opposizione. Infatti Villari era uno dell'opposizione e lo stesso Zavoli, naturalmente, uno dell'opposizione. La ringrazio. Rodolfo da Venezia, velocemente, poi abbiamo il giornale radio. Rodolfo. Sì, buonasera, non vorrei perdermi in elogi, però dottor Cruciani, lei è bravissimo, guardi. Dica Rodolfo, veloce, perché la devo interrompere, se no. Comunque, diciamo, io ho telefonato per dire la mia opinione, che ho sentito il giudice Guarinello, il magistrato, dicendo orgoglioso che lui con questa, diciamo, richiesta di condanna ha scritto una nuova pagina di storia, di storia della magistratura, non solo italiana ma mondiale. A me sembra che questa persona sia tanto in cerca di farsi pubblicità. Titoli del TG3. Minacce e insulti razzisti ad Obama in un messaggio di Al-Zawahiri, numero 2 di Al-Qaeda, negro e servo di Israele, ha tradito le sue origini. Vergogna antisemita online, in rete agghiaccianti brani di un gruppo musicale italiano che esaltano la persecuzione degli ebrei, unanime condanna. Il calo dei consumi delle famiglie proseguirà fino al 2010, la Confcommercio lancia un nuovo allarme sull'auto, Marchionni dice aiuti a tutti o nessuno. Strage di Erba, Olindo Romano in aula, non ho ucciso, mi sono solo immedesimato nell'assassino, l'avvocato della famiglia sterminata, basta bugie. È in gravi condizioni il ragazzino ferito in un agguato in Calabria, 14 anni, era in macchina con il padre, ucciso dai killer. La marina indiana affonda una nave pirata nel golfo di Aden, ma i corsari continuano a catturare navi. Ecco le rotte della filibusta. Bene, questi erano i titoli del TG3. Mi sorprendono le parole di Brunetta pronunciate nel pomeriggio a Napoli, dove era insieme alla presidente della regione Campania Bassolino. Brunetta, dopo tanto parlare di riforme della pubblica amministrazione, lotta ai fannulloni, tutte le polemiche si sono scatenate da qualche mese a questa parte, dice: i fannulloni non ci sono più. Si sono ridotti ormai del 50% per quanto riguarda le assenze per malattia, il che mi fa dire che, se toccato opportunamente, il sistema della pubblica amministrazione è reattivo. Adesso, per carità, ci saranno dei progressi, però arrivare a dire i fannulloni non ci sono più e dire il paese ha capito, i pubblici dipendenti hanno capito, non è che si può concludere una battaglia o si può ritenere vinta una battaglia se si ritiene questa battaglia corretta dopo 4 mesi contro il mastodonte della pubblica amministrazione e le sue inefficienze. Certamente non ci vuole così poco tempo. Sky TG24. Negro filo israeliano è la prima minaccia di Al-Qaeda ad Obama per voce di Al-Zawahiri. All'Italia c'è l'ok di Scaiola, vendita alla CAI per non meno di 1.052 milioni. Vigilanza Rai, dopo l'accordo su Zavoli, attese per domani le dimissioni di Villari. Il governo rallenta sull'indultino, AN e Lega frenano sulla messa in prova sugli incensurati. Immigrati, Maroni insiste sulla moratoria dei flussi, deciderà il Senato. Strage di Erba, in aula Olindo nega tutto, Azzuz chiede un risarcimento milionario. Agguato di 'Ndrangheta, Palmi, ucciso un pregiudicato gravissimo, il figlio adolescente. Bambole insanguinate contro l'aborto, azione eclatante di Forza Nuova a Palermo. Arriva il grande freddo, nel weekend temperature in netto ribasso e spunta la neve. Italia in Grecia, Lippi lancia Rossi, esordio per Maradona, CT contro la Scozia. Bene, bene, alle 19.20 erano i titoli di Sky TG24 e il nostro numero di telefono è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Non è la prima volta che succede, Berlusconi che prende il telefono e interviene in diretta in qualche trasmissione televisiva. Ricordiamo sempre Ballarò e poi Santoro, addirittura la domenica sportiva una volta per dire Ancelotti deve mettere dentro le tre punte. Insomma, non è la prima volta. Questa volta motivo dell'intervento di Berlusconi sono state le parole pronunciate da Di Pietro ieri. Di Pietro che ha detto Berlusconi è un corruttore politico. Sentiamo Berlusconi in diretta a Ballarò, dove pure Di Pietro non c'era. L'onorevole Di Pietro ha parlato in un certo modo di me, accusandomi di aver tentato di corrompere l'onorevole Villari, di aver tentato di corrompere l'onorevole Orlando e di aver tentato a suo tempo di corrompere anche lui. Quindi volevo fare una precisazione al riguardo. Posso? Prego. Riccardo Villari non lo conosco, non l'ho mai incontrato né prima né dopo la sua elezione alla presidenza della Commissione di Vigilanza. Secondo, non ho mai chiesto un appuntamento all'onorevole Orlando. Mi è stato proposto di incontrarlo da un collega di Forza Italia, ma io ho rifiutato. Terzo, è vero che nel 94 ho chiesto un appuntamento al dottor Di Pietro con l'intenzione di offrirgli un posto di ministro nel mio governo, ma allora non ero a conoscenza del fatto che il pubblico ministero Di Pietro avesse messo in prigione degli innocenti, rovinando la vita loro e alle loro famiglie in un numero elevato, persone che poi non erano state neppure ritenute da rinviarsi a giudizio. Comunque, avendolo conosciuto, con la mia esperienza e la mia capacità di capire gli uomini, l'ho capito e ho rinunciato seduta stante a fargli la proposta. E qui, in questa ricostruzione di Berlusconi dell'offerta di Pietro nel 94, non si capisce bene. Cioè, Berlusconi sembra dire e ricostruire: io ho invitato Di Pietro, però mentre parlavamo mi sono accorto, così a sensazione, che non era l'uomo giusto e seduta stante ho liquidato la questione. Di Pietro ricorda un'altra cosa, ricorda che per esempio un posto da ministro Berlusconi glielo offrì anche nel 2005, da quello che poi lui dice. Ma sentiamo ancora Berlusconi sulla vicenda Di Pietro. Invito l'onorevole Di Pietro, dopo queste accuse, a fare il suo dovere. Deve andare dai magistrati e denunciarmi. Se non lo farà lui, lo farò io, querelandolo per calunnia. Tutto qui e grazie per aver dato questa possibilità. Va bene, e qui si conclude una parte dell'intervento di Berlusconi, poi c'è un litigio di Verbio, un confronto molto duro con Epifani, che magari più avanti ascolteremo. E quello che c'è da rilevare è che Berlusconi poco tempo fa aveva detto, beh, insomma, in certe trasmissioni noi non ci andiamo, tra queste trasmissioni certamente c'era Ballarò, perché qualche giorno dopo il ministro Bondi, ministro di Forza Italia, ministro dei beni culturali, aveva detto, insomma, io a certe trasmissioni non vado più perché sono una gogna, e le aveva anche elencate. Ballarò, Anno Zero, naturalmente. Berlusconi. Noi pensiamo anche di non doverci più rendere disponibili a trasmissioni come quelle a cui io ho avuto modo di assistere in questi giorni, perché non credo che il ruolo di chi governa sia quello di andare ad essere sottoposto ad insulti e a menzogne e dare spettacolo senza avere poi la possibilità di controdichiarare in maniera tranquilla, dato il clima di rissa in cui queste cose si svolgono. Va bene, questo è ancora Berlusconi. Andiamo a sentire Di Pietro, che oggi naturalmente poi invitato a nozze da Berlusconi dopo questo intervento a Ballarò, che cosa fa? Naturalmente mette un carico da 90, perché è evidente, perché queste cose di Berlusconi in realtà sono un invito a nozze per restare sulla scena per Di Pietro. E allora sentiamolo, lo confermo, un corruttore politico. Io lo ribadisco in questa sede nella mia funzione di parlamentare dell'opposizione. Se non gli va bene, lo vado a dire lui dai magistrati, altrimenti si tenga quelli che glielo ripete. Corruttore, sporco, corruttore, politico. Beh, insomma, queste cose le lascio la responsabilità di questo giudizio. Comunque lei si aspetta una querela per diffamazione. Ma magari fosse. La questione dei Pizzini, pensate un po' che cosa anima la politica italiana. Il deputato del PD La Torre, che suggerisce a Bocchino del Partito del Popolo della Libertà nel dibattito sulla vicenda Rai di dire, beh, insomma, dillo tu che io non lo posso dire, c'è la questione della Corte Costituzionale, la vicenda Pecorella, che puoi utilizzare come strumento per bloccare, questo intendeva, insomma, per argomentare su Orlando. E questa vicenda del Pizzino è stata, nemmeno fosse il Pizzino di Provenzano eccetera, Pizzino ritrovato sulla scrivania di Omnibus, è stata commentata in questo modo, più che altro messa in scena in questo modo, sempre questa mattina a Omnibus, sentite. Grazie Antonio Ricci, grazie Zio Greggio, grazie Iacchetti, ovviamente per cortesia facciamo entrare il reperto archeologico così, ecco, grazie. Con la musica di X-File, lo faccio vedere a favore di camera, così svediamo parte dalla busta il reperto numero 1. A favore di camera, se potete inquadrarlo stretto, vi lascio uno sfondo, il Pizzino, che appunto abbiamo trovato in studio, dice io non posso dirlo, ma il precedente della Corte Costituzionale, punto di domanda, Pecorella, punto di domanda, ed è questo che è rimasto qui nello studio alla fine della puntata. Eccolo qua. E con questo abbiamo risolto, vedo Polito che già golosamente dice me lo passi per il mio giornale, io te lo passo volentieri, perché tanto non mi sembra che poi questo sia un problema, diciamo così, fondamentale della politica italiana. Ci sono scambi, contatti fra le parti, come giusto che sia. E questo era Piroso, che chiudeva, direttore del Telegiornale della Sette, che chiudeva sulla vicenda dei Pizzini. I grandi vecchi che tornano sempre di moda nella politica italiana, ci si affida adesso a Zavoli, come prima per esempio per quello che riguarda il calcio ci si era affidati e ci si continua ad affidare per esempio ad Antonio Matarrese, che addirittura di questa storia dei vecchi ne fa una questione di filosofia. In fondo l'Italia è questa qui, di cosa vi stupite? 10 anni fa il Presidente del Consiglio era Prodi, Pippo Baudo dirigeva il Festival di Sanremo 10 anni fa e Albano cantava, quindi questo è il paese, che ci meravigliamo noi. Infine Crozza, ieri su Berlusconi che fa il cucù alla Merkel, sentite per chiudere. Cucù. Cucù. No. Ma no Castelli, ma poi mi dicono, ma tu ce l'hai sempre con Berlusconi, ma ce l'hai sempre, dici, io non lo so, ma oggi si è nascosto dietro un lampione e ha fatto cucù alla Merkel. Credo che sia stato il suo atto politico più importante degli ultimi 6 mesi. Comunque, rispetto alle corna, devo dire è un passo in avanti, è migliorato. Perché fino a qualche mese fa l'avrebbe salutata con una pacca sul culo. A me che come va? Comunque Silvio, non perdo un colpo, eh. Dopo che Cassano ha confessato di aver avuto 700 donne, pur di non perdere il primato, ha chiesto il riconteggio. Diversi ascoltatori ci suggeriscono di mandare in onda anche gli altri stralci di Berlusconi con Epifani, soprattutto alla fine della conversazione a Ballarò, in cui il telefono a un certo punto di Berlusconi cade, o comunque lui abbassa la linea mentre Floris voleva fargli un'altra domanda, in particolare sull'affermazione di Berlusconi ieri, perché un passante gli ha chiesto ma insomma il TG3 è uno schifo, e lui gli ha detto beh allora non paghiamo il canone, lo diceva scherzando, però naturalmente poi scherzando le cose finiscono sulle agenzie di stampa e successivamente sui giornali. Dunque Berlusconi che invita a non pagare il canone perché il TG3 lo offende tutta la sera, naturalmente non lo diceva seriamente, però fino a che punto può parlare scherzosamente un presidente del Consiglio? Ma il nostro ospite per tutta questa serata sarà un ascoltatore con cui ieri abbiamo un po' battagliato naturalmente in maniera assolutamente civile, al telefono, a livello di opinioni, Giuseppe Ferrera, buonasera. Buonasera a lei. Giuseppe Ferrera ci parla da Messina, anzi mi dicono che si trova di fronte allo stretto di Messina, davanti al mare. Sono in macchina, fermo qui. Sì. Professore all'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferrari di Pace del MELA. Sì, esattamente. Dunque lei è un professore. Sì. Senta, a proposito di Messina, siccome negli ultimi giorni è venuta fuori di nuovo la storia del ponte sullo stretto di Messina, che ne pensa? Allora, guardi, io non so se lei conosce Messina. Beh sì, ho abitato in Sicilia diversi anni, comunque. Dovrebbe sapere che fra esattamente un mese circa, un mese qualcosa, sono 100 anni che c'è stato il terremoto a Messina. Sì, nel 1908, no? Perfetto, il 28 dicembre. Messina ancora paga le conseguenze di quel... Abbiamo circa, io non so di preciso, ma sono numeri un po'... Credo sì. Ci siano 20.000 persone ancora in città che vivono in baracca. Beh, ancora ci sono addirittura, non quelle del 1908, però ancora sì, a Messina... Sì, ma quelle che sono state costruite, sì, subito dopo. Comunque, insomma, le zone ancora sono occupate da alcune baracche. E, dunque, guardi, io il ponte... Come principio non sono contrario, credo che dovrebbe venire dopo aver dato per esempio l'acqua alla città di Messina, che ce l'abbiamo solo per sì e no una decina di ore al giorno, ma ci sono altre città che stanno molto peggio di noi, altre città siciliane naturalmente. Sì. Cioè prima vengono altre cose dopo, e poi eventualmente... Assolutamente sì, cioè dopo aver fatto il raddoppio della ferrovia verso Catania che verso Palermo. È assurdo come dire, fare un'opera faraonica come il ponte e poi insomma, mancano cose molto più importanti. Per arrivare da qui a Palermo ci vogliono 3 ore e mezza di treno, per arrivare a Catania 1 ora e mezza, insomma, stiamo parlando di 100 km, 200 km. Eppure sembra, come lei sa, che fra pochi giorni il CIPE stanzierà dei soldi per diverse opere, e tra queste opere c'è anche il ponte. Il ponte, secondo me, sarebbe molto meglio prima, cioè sono quelle cose, cioè poi questo ponte dovrebbe unire due realtà, suppongo, la Sicilia e la Calabria. Beh, sì, fino a credo che abbiano bisogno di ben altro che del ponte, perché mi sembra una cosa faraonica messa lì, non so quale utilità, secondo alcuni dovrebbe... Ferrera, alcuni potrebbero traino per l'economia. Sì, beh sì, ci sono anche delle teorie da questo punto di vista. Alcuni direbbero che il suo ragionamento è un ragionamento da ben altristi, prima viene sempre qualcos'altro prima di fare una cosa. Beh, io potrei rispondere a questo che è una mentalità tipica, non è questa, è una mentalità tipica, sa che c'è a Messina, ci sono le cosiddette baracche, se lei ci passa, vede sopra che hanno un'antenna parabolica, l'aria condizionata e il BMW fuori. Cioè, è la stessa mentalità dal mio punto di vista, cioè manchiamo di acqua, cioè di cose primarie, e abbiamo la cosa faraonica. Mi sembra la stessa. Senta mentalità. Ferrera, sentiamo un ascoltatore, Rodolfo da Venezia. Rodolfo, buonasera. Sì, pronto? Sì, sì, dica. Io avevo cominciato prima... Sì, parlando di Guariniello, secondo lei Guariniello ha un po' esagerato nel parlare di iniziativa storica, comunque che sia storica, rivoluzionaria, la richiesta nei confronti dell'amministratore delegato della Tisra, non c'è dubbio. Volevo sentire la sua opinione, ecco, più che altro. Io sono rimasto un po' scandalizzato dal fatto che un magistrato vada in... in conferenza stampa e si vanti di certe cose, sinceramente. Beh sì, ma questo fa parte del carattere di Guariniello. Uno che indaga per 20 anni sul doping e alla fine il risultato cos'è stato? Cioè poco o nulla alla fin fine, per dire. Guardi, io credo che questa accusa non reggerà, questo è quello che penso. Poi, come al solito, l'iniziativa di un GUP si può anche commentare, naturalmente, ma la si può commentare in questo modo. Certamente l'opinione pubblica e quello che è successo intorno alla Thyssen non è estranea a questa vicenda e al primo passo giudiziario di questa vicenda. La ringrazio, Rodolfo. Giulia d'Asti, poi chiederò a Ferrera qual è la notizia di oggi, se ha seguito le cose di oggi che l'ha colpita di più. Giulia. Sì, vabbè, la notizia che si sta chiedendo a me? Sì, Giulia, a lei, sì, certo. La notizia che mi ha colpito di più è stato rivedere in un video oggi, perché ieri sera non l'avevo ascoltato, sì, la conversazione tra Bersani e Berlusconi. Sì. Pongo l'attenzione su quello, perché il comportamento di Bersani, che è una persona molto corretta tra l'altro, e questo lo può verificare chiunque lo ascolti quando parla, è stata molto pacata e costruttiva. Gli è stato risposto, invece di rispondergli quello che si potrebbe fare insieme, gli è stato risposto che l'opposizione lo ha maltrattato, cioè cose che non c'entravano nella conversazione tra le due persone, ancor più che opposizione vuol dire opporsi, no? Viene da ob e pono, no? Mi oppongo, mi pongo in posizione contraria. Cosa si può pretendere che si costruisca quando il rapporto alla base è minato dal fatto che non si accetta l'opposizione? Cioè, io sì, però Giulia, mi perdoni, le dico una cosa, su chi abbia, tra virgolette, rovinato il clima che si era instaurato, diciamo, durante le elezioni e anche immediatamente dopo, se vogliamo, qui si va un po' a simpatie politiche, perché naturalmente lei pensa che sia stato Berlusconi, altri pensano che sia stato Veltroni, per cui, sa... non le so dare una risposta su questo. Lei voleva una risposta, se lei pensa, se lei mi domanda, Berlusconi è stato arrogante nei confronti di Bersani ieri sera, sì, a Ballarò, no. io le dico che Berlusconi nei confronti di Bersani, della persona Bersani, non credo. Ha semplicemente detto quello che ripeto ormai da tempo: siccome Veltroni, Franceschini e Di Pietro mi trattano come una sorta di criminale, come un dittatore, parlano di regime, io con questi non parlo. È legittimo secondo lei rispondere in questo modo? No, mi scusi. Sì. Il discorso è questo, che quando Berlusconi era all'opposizione ha fatto molto peggio, ogni giorno si vedeva la sua faccia in televisione che diceva diamo una spallata al governo, era una cosa stressante. Beh, dare una spallata significa sostanzialmente far cadere il governo, e tutte le opposizioni vogliono far cadere il governo. Certamente pure Berlusconi ha utilizzato la parola regime quando parlava delle cariche tutte occupate dal centro-sinistra, però certo, insomma, Videla... come Di Pietro o anche alcune espressioni utilizzate da membri dell'opposizione per far credere che da una parte ci siano le regole e dall'altra ci sia invece un dittatore, questo forse non c'è stato. Forse non c'è stato questo perché dall'altra parte non c'era un comportamento da dittatura, mi scusi tanto, però quando si creano certi presupposti, perché secondo lei c'è un comportamento da dittatura? Beh, dal punto di vista formale sì, perché ad esempio quando uno ha una maggioranza così forte in Parlamento, perché non consente la discussione? Per esempio nell'ambito della riforma della scuola, io sono un insegnante... Sì, però mi scusi, queste sono tecniche parlamentari. Questo problema lo approfondisco tanto, si poteva fare in maniera diversa, si poteva condurre in maniera diversa... Ma tutto si può fare in maniera diversa, ma non è che è stato fatto contro la legge. Parlare di dittatura e usare queste categorie non significa niente. Uno può dire, beh sì, forse sulla riforma della scuola si poteva fare un passaggio parlamentare in più, se ne poteva discutere di più anche con l'opposizione, però io mi metto sempre, ricordo sempre che Veltroni prima delle elezioni, delle ultime elezioni, una delle cose che diceva sempre: basta con questo parlamentarismo improduttivo, si discute troppo, ci vuole più velocità a decidere eccetera. Poi adesso cambia tutto, dopo le elezioni quando si è all'opposizione tutto cambia, questa è la mia idea. Decidere velocemente sì, ma senza coinvolgere la controparte. Scusi un attimo, se io con mio marito esco, mi compro una macchina, decido velocemente, la compro senza consultarlo, mi sembra che non faccia una cosa tanto regolare, vero o no? Vabbè, anche se sono decisionista. E chi sarebbe in questo caso? La controparte. Certo, ma chi sarebbe in questo caso la moglie? Chi sarebbero la moglie e marito? Io dico moglie e marito. Nella politica chi sarebbero moglie e marito però? secondo me maggioranza e opposizione dovrebbero comportarsi in maniera armonica. Sì, come moglie e marito forse un po', come moglie e marito mi sembra però un po' troppo. Sì, è un paragone forse un po' azzardato. No, no, ma a me è piaciuto. Le persone hanno un rapporto. Sì, no, ma ho capito perfettamente. Cercare di mantenere sempre nei termini abbastanza... No, ma io sono d'accordo con lei, Giulia, io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di trovare questo rapporto. E sbagliava Berlusconi quando parlava di regime nella passata legislatura, e alcune espressioni che adesso usa l'opposizione da qualche mese a questa parte sono altrettanto sbagliate. L'opinione del professor Ferrera? Su quest'ultima affermazione sarei un po' d'accordo con lei. Vorrei solo precisare che forse non mesi dopo, ma un minuto dopo la fine delle elezioni precedenti, non queste, l'onorevole Berlusconi ha detto che c'erano dei brogli elettorali. Credo che sia molto più grave. Molto più grave rispetto a cosa, professore? Rispetto alle affermazioni di dittatura o di cose, perché parlare di brogli elettorali vuol dire minare ancora di più, credo che sia la base della democrazia, no? Cioè dire che ci sono dei brogli elettorali vuol dire, è una cosa terrificante secondo me. Sì, sì, no, ma sono d'accordo con lei. E allora, l'onorevole Berlusconi, se non ricordo male, vado che c'era un anno e mezzo fa, due anni fa, lui lo disse esattamente 10 minuti dopo, insomma, quando si ebbe la certezza dei 25.000 voti in più o qualcosa del genere. E cominciato a parlare di brogli elettorali ed è andato avanti per un anno e mezzo, tutti i giorni ha costretto il Parlamento a ricontare schede, a fare cose, cioè ha fatto cose allucinanti. Ora non capisco di cosa si lamenta, se qualcuno sbagliando secondo me, perché credo che sia il terreno sul quale gioca meglio l'onorevole Berlusconi, quello degli insulti e delle cose. Lui è molto bravo in questo, a tirare e poi tirare indietro la mano, insomma a tirare uno schiaffo e poi tirare indietro la mano, è molto bravo. Comunque credo che non sia secondo sicuramente a Di Pietro né a nessuno. Però insistere in maniera scientifica, perché Di Pietro fa questo, no? Insiste in maniera scientifica sulla dittatura, sul corruttore politico, adesso c'è questo tormentone del corruttore. Questa è una strategia politica ben precisa, no? È un errore, sta commettendo un errore secondo me Di Pietro, perché sta scendendo sullo stesso piano, su quello che lui diceva un anno e mezzo fa. Torna a ripetere, secondo me parlare di brogli elettorali e costringere il Parlamento a ricontare voti, tribunale, cosa, mettere di mezzo tutto questo è una cosa molto molto grave. E l'onorevole Di Pietro e qualcun altro sta scendendo sullo stesso molto meglio Bersani, che parla molto pacatamente, ieri sera l'ho sentito. Secondo me Berlusconi ha risposto molto male, perché poi era un invito di un autorevole esponente dell'opposizione che lo invitava, ha parlato del Titanic, cioè di un paese che sta affondando. Non ha mai parlato a Bersani di dittatura o di cose di questo tipo. E ha offerto come dire, la disponibilità del centro-sinistra. Allora credo che un Presidente del Consiglio un pochettino più, come dire, meno nervoso, ecco, forse questo, meno nervoso, avrebbe dovuto accettare con molto più garbo e molto più stile probabilmente l'invito a collaborare per vedere come... Invito reiterato anche da Veltroni oggi. Allora, 1947 800 24 00 24, Luca Palamara, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, buonasera. Buonasera a lei. Dottor Palamara, innanzitutto leggo qui che voi vi appellate all'ONU. Perché cosa vi appellate all'ONU? Guardi, il titolo... L'ANSA evidentemente ha sbagliato, perché mi sembra strano. Sì, non è un appello all'ONU, è semplicemente una richiesta di incontro, come da prassi e tradizione dell'Associazione Nazionale Magistrati, al relatore speciale per i diritti umani, per affrontare il tema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che come è noto è un tema a noi molto caro e quanto mai attuale. Le posso dire che, poi ci sono 30 secondi di pubblicità, che a parte che non credo che sia in gioco in queste ore o in questi giorni l'indipendenza della magistratura, ma insomma, appellarsi addirittura all'ONU, i diritti umani, mi sembra un tantinello esagerato, perché leggo: allarmata per i duri attacchi alle decisioni della magistratura venuti da esponenti politici e dallo stesso primo ministro, e per i progetti di riforma del CSM che vogliono sminuirne il ruolo di garanzia dell'indipendenza della magistratura e per l'aggravarsi della lentezza dei processi, l'ANM si rivolge all'ONU. Questa lanza. Il contenuto della lettera non fa che riproporre quelli che sono i temi sui quali negli ultimi mesi siamo stati impegnati. E c'è bisogno di andare all'ONU? Non c'è bisogno di andare all'ONU, è una ricca come i quali. Già se quest'estate scorsa abbiamo ad esempio parlato col commissario europeo dei diritti umani, rientra appunto nell'ambito del dibattito culturale che caratterizza la storia dell'associazione, affrontare le problematiche che riguardano l'autonomia e l'indipendenza, che oggi non riguardano ad esempio solo la magistratura ordinaria ma anche la magistratura contabile. Faccio un esempio, ci sono degli emendamenti che riguardano le modifiche del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, quindi il tema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura è un tema al quale noi siamo sempre vigili e attenti. Questo è il contenuto e il senso della lettera. Senta, però io l'avevo chiamata per un'altra cosa, che è questa vicenda della proposta che sembra tramontata da parte del Ministro della Giustizia della messa in prova per chi rischia fino a 4 anni. Ci sono diversi reati all'interno, tra cui anche il falso in bilancio, tutti i reati insomma fino a 4 anni, naturalmente per gli incensurati, e il lavoro cancellerebbe il reato per gli incensurati. Era una proposta che non vi vedeva sfavorevoli, è così? Senz'altro sì, noi facciamo un discorso di carattere tecnico, anzi mi ricollego alla prima parte dell'intervento, proprio per dimostrare come l'Associazione Nazionale Magistrati non vuole svolgere né un ruolo, come dire, di collaborazionismo a prioristico né di opposizione, ma un ruolo eminentemente tecnico. Il punto di partenza qual è? È che il processo funzioni. Quindi noi che cosa abbiamo detto nelle proposte che abbiamo avanzato al Ministro nel maggio scorso, che tra l'altro abbiamo rappresentato anche nella Commissione Giustizia e addirittura anche al Presidente della Repubblica? Di deflazionare il dibattimento. E attraverso quale strumento? Anche attraverso lo strumento della messa in prova. Perché? Che cosa vuol dire? Noi oggi abbiamo una situazione nel nostro ordinamento in virtù della quale per le condanne a pena non superiore a 3 anni è previsto appunto l'affidamento in prova al servizio sociale. Sì. Allora, nell'ottica di deflazionare, quindi come dire, di sveltire il provvedimento, abbiamo tra le varie proposte già fatte proprie peraltro da varie commissioni di studio di modifica sul processo penale, di introdurre questo istituto della messa in prova. In altre parole, quando inizia un procedimento, faccio un esempio, ad esempio per un reato di furto semplice, l'indagato può chiedere di essere messo alla prova. A quel punto si sospende appunto il procedimento, sì, e si dà una possibilità all'indagato di svolgere appunto un lavoro socialmente utile. Naturalmente incensurato, no? Quando... incensurato, infatti noi l'abbiamo previsto in maniera simmetrica con l'affidamento in prova al servizio sociale per reati, noi avevamo indicato per un tetto non superiore ai 3 anni. Ecco, però, per dottor Palamara, non più di 2 volte. Ecco, però, dottor Palamara, qui si pone un problema, perché tra i reati puniti con pene massime fino a 4 anni, cioè naturalmente il furto semplice, come ci ha detto lei, però c'è anche la corruzione semplice, il falso in bilancio, i reati ambientali, il peculato semplice, l'usura impropria, l'appropriazione indebita, la frode informatica, la truffa, la corruzione di minorenne, la frode nell'esercizio del commercio, lo stalking, cioè le persecuzioni insistenti. Questo, mi sembra insomma un'esagerazione. Se fosse molto chiaro, perché ovviamente noi ci preoccupiamo, come dire, del processo che funziona, non è che vogliamo dare il messaggio della impunità. Allora, premesso che noi avevamo indicato questo tetto di 3 anni proprio per rendere simmetrico l'aspetto con il discorso dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma noi non ragioniamo nell'ottica di non punire, noi ragioniamo nell'ottica di appunto deflazionare. D'accordo, ma su tutti questi reati, su tutti questi reati, voi siete d'accordo reati, oppure bisogna mettere un limite ai reati per cui poi si può... Esatto, noi l'avevamo indicato in 3 anni, infatti 4 può essere un termine chiaramente più elevato rispetto a quello che abbiamo indicato noi, per determinati reati nei confronti di soggetti incensurati avevamo previsto, ripeto, non è che abbiamo fatto chissà quale scoperta, perché erano progetti fatti propri da commissioni. Ma non è mica uno scandalo, assolutamente. No, assolutamente, noi dico, l'abbiamo proposta, siamo convinti appunto della proposta sotto questo profilo, non di trasmettere un messaggio di impunità ma di deflazione. La ringrazio. E dunque queste polemiche sull'amnistia mascherata, eccetera, eccetera, le sembrano esagerate. La politica non riguardano, noi ci preoccupiamo del funzionamento del processo, su questo terreno vogliamo essere impegnati. Il problema appunto dell'amnistia, dell'impunità, sono discorsi che deve svolgere il dibattito politico. D'accordo, anche se voi ogni tanto non è che vi fate mancare giudizi da questo punto su di questo vista. Questo mi consente appunto di ribadirle proprio con assoluta fermezza come noi intendiamo ogni volta che ci siamo pronunciati su questi argomenti, valutiamo l'impatto che i provvedimenti hanno sul processo. E non avrebbe un impatto devastante da questo punto di vista per la certezza del diritto il fatto che magari un incensurato, naturalmente si tratta sempre di incensurati, attraverso un lavoro socialmente utile potrebbe non avere la fedina penale sporca per un reato anche grave, come per esempio la persecuzione insistente o violenta nei confronti di una donna o nei confronti di una, senz'altro, una persona. La parte in cui servono interventi coerenti sul sistema normativo penale, con noi ad esempio abbiamo previsto il problema di una ragionata depenalizzazione, dell'introduzione delle rilevanza penale del fatto, nel momento in cui diminuiamo il numero di reati sicuramente poi si può evitare di introdurre questi istituti, ma così com'è la situazione del processo penale. Noi viviamo oggi una sorta di panpenalizzazione, tutto il reato, dobbiamo trovare degli strumenti correttivi. Lo strumento correttivo noi lo individuiamo appunto nella messa in prova. Il professore potrebbe farmi pure sul patteggiamento. No, certo. Risponde a questa finalità, quindi di accelerare e di sveltire. Nel caso del patteggiamento ovviamente c'è un patteggiamento sulla pena, in questo caso invece all'incensurato si dà una possibilità appunto di mettersi in prova. È chiaro che questo solo per una volta, naturalmente, solo per una volta, e questo presupporrebbe ovviamente però una pubblica amministrazione che funziona, cioè un comune che dice ti faccio fare questo lavoro, ad esempio tagliare l'erba nei prati o pulire le strade, quindi ci vuole poi una pubblica amministrazione che realmente controlla che il soggetto indagato sia realmente e su appunto... questo è giusto, su questo mi permetta di avere dei dubbi, ma questo non mi riguarda naturalmente. La ringrazio dottor Palamara. 19:55 è una sorta di trucco di amnistia, lo chiedo al professor Ferrera. Credo di sì, anche se un indulto mascherato è stato chiamato. Io mi preoccuperei, al di là di quello, mi preoccuperei anche del messaggio che si manda, insomma, non mi sembra una cosa molto educativa, come dire, dal punto di vista del messaggio che si manda proprio alla gente, insomma. Però si tratta sempre di incensurati, elencati, io non l'ho letto esattamente, ma i reati che lei ha elencato ce ne sono di gravi, veramente non credo che ci possa essere davanti a reati di questo genere, non credo nemmeno un incensurato può farla franca. Nemmeno un incensurato può. Assolutamente, al di là dell'incensurato, ci sono reati che vanno puniti comunque, dal mio punto di vista, proprio dal punto di vista educativo, credo. Giancarlo, sentiamo Giancarlo da Roma. Giancarlo. Sì, amo, se lei ringrazio. Io diciamo che volevo intervenire sul discorso dell'onorevole Berlusconi, presidente Berlusconi, su Ballarò, però già ha fatto abbastanza, l'intervento di prima già ha concluso più che ampiamente la stessa spiegazione. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che diciamo come controparte l'onorevole Bersani dovrebbe essere il ministro ombra dell'economia, quindi è secondo il ministro della parte dell'ombra, dovrebbe essere la persona più autorevole e quindi che avrebbe sicuramente dato la mano a quanto sistema paese. E comunque sia, diciamo, un'altra piccola cosa che si può dire, chi ha risposto è il Presidente del Consiglio, che in questo momento non è più in campagna elettorale, forse l'opposizione sì, ma il Presidente del Consiglio non è più in campagna elettorale, dovrebbe governare. E diciamo dovrebbe governare autonomamente, se ne ha le capacità, la forza, l'intelligenza. TG1 titoli. Minaccia e insulti razzisti di Al Zawahiri numero 2 di Al Qaeda contro Obama, che promette più truppe in Afghanistan. Vigilanza Rai, forse staffetta Villa Rizzavoli. Sulla crisi la maggioranza e Veltroni ragionano su un confronto a Palazzo Chigi. All'Italia il ministro Scajola dice sì a CAI, che dovrà pagare non meno di 1.052 milioni di euro, altri 100 voli cancellati. Grande corsa per il libro dell'anno TG1 2008, in testa al romanzo di Giordano, segue il riccio della Barbara, inseguono Obama e Tremonti. Va bene, andiamo a sentire anche il TG5. Strage di Erba, dopo la richiesta di Ergastolo, Olindo Romano parla in aula, siamo innocenti. Azuz chiede 2 milioni e 600 mila euro di risarcimento. Obama è un servo negro filo israeliano, Al-Qaeda all'attacco di Barack Obama, presidente eletto degli Stati Uniti, con un delirante messaggio di Al-Zawahiri. Via libera del ministro Scajola all'offerta CAI per Alitalia, ma per non meno di 1.052 milioni di euro, la scelta del partner internazionale a fine mese. Un bandito tenta un colpo in farmacia e viene bloccato da un poliziotto in borghese. In banca un altro punta l'arma contro un bimbo e un video lo incastra. A Barcellona, chirurgo italiano guida l'equipe che esegue un trapianto eccezionale di trachea. Niente rischi di rigetto grazie all'innesto di cellule staminali. Italiani troppo sedentari, eppure palestre e circoli sono strapieni. Più che per fare sport, la maggioranza ci va per fare quattro chiacchiere e nuove amicizie. Contro la ressa, senso unico per i pedoni a San Gregorio Armeno, la via napoletana dei presepi. Tra le novità, la statuetta del ministro Brunetta. Va bene, Brunetta persino nella statuetta del presepe napoletano, d'altra parte era inevitabile, nel bene o nel male, la persona che ha fatto più discutere gli italiani da 6 mesi, da 7 mesi a questa parte. 1.052 milioni di euro, dunque 1.052 milioni di euro, è l'offerta che deve fare la CAI per comprarsi una parte di Alitalia. Andiamo a sentire Vito da Roma. Buonasera dottor Cruciani. Buonasera a lei. Senta, io volevo intervenire in merito tanto alle canzoni antisemite di cui si è parlato oggi, quanto del professore che comunque faceva apologia del fascismo e del nazismo e poi sosteneva tesi negazioniste. Più che altro sosteneva tesi negazioniste, più che apologia del fascismo e del nazismo, anche sì, se tra le due cose spesso non è che ci sia molta differenza. Il limite infatti è proprio questo, che spesso difendere teorie naziste oppure una rivisitazione storica di quel genere implica anche un'apologia. E invece per quanto riguarda le canzoni sul web, insomma, è preoccupante. Basti pensare che il disco è intitolato Zyklon B, poi ci sono dentro canzoni come Anna non c'è, facendo riferimento a Anna Frank. Quindi credo che la politica, soprattutto l'attuale governo di centrodestra, che non credo proprio sia un regime onestamente, dovrebbe in questo momento storico prendere una, insomma, ci vorrebbe una reazione forte, qualche non so, una legge per esempio che regoli meglio appunto per esempio tutti i reati connessi a insulti antisemiti o razzisti di ogni genere, e allo stesso tempo bisognerebbe investire su l'integrazione, perché francamente, anche se questo non è un problema molto sentito dagli appartenenti alla comunità ebraica, almeno per quanto mi riguarda, però se non lavoriamo adesso sull'integrazione rischiamo di trovarci nella situazione in cui si è trovata la Francia di recente, perché sì, sì, no, ho capito, la ringrazio Vito, francamente però devo dire la verità, io credo che sia abbastanza inevitabile che queste cose accadano. In altri paesi ci sono tantissimi gruppi neonazisti, gruppi neofascisti con le loro canzoni, ed è praticamente impossibile arrivare ad un divieto da questo punto di vista. Io credo, infatti non ho fatto alcun cenno a questo episodio, a questo fatto di cronaca, semplicemente per non dare spazio a certe cose. Sono cose che accadono nel web, certamente gravi, certamente terrificanti, se si sentono le parole di queste canzoni, se si leggono le parole di queste canzoni. È difficile pensare come certe menti possano elaborare delle cose, non c'è dubbio da questo punto di vista. Però cosa vuole che faccia un governo? Che sanzioni queste cose? Ma io sono sempre dubbioso sulle sanzioni, perché poi leggevo oggi da qualche parte che è difficile trovare dei reati. Se si fanno delle canzoni in cui si utilizzano dei personaggi per volerli disprezzare, vittime del nazismo, eccetera, eccetera. Credo che tutto sia piuttosto complicato. Naturalmente ci vuole il controllo da parte degli organi di vigilanza, della polizia, eccetera, eccetera. Però questi gruppi cercano pubblicità ed è meglio non dargliela la pubblicità e la visibilità. 20 a 7 minuti, sentiamo la 7, titoli, se ce l'abbiamo. Minaccioso audio razzista di al-Zawahiri contro Barack Obama. Il numero 2 di Al-Qaeda definisce il presidente degli Stati Uniti negro filo israeliano e lo contrappone a neri rispettabili come Malcolm X. La strage di Erba, Azzuz Marzouki invoca condanne senza indulgenza, ergastoli senza Dio, dice, per i due assassini, e chiede un risarcimento di 2 milioni e 600 mila euro. Olindo Romano smentisce il pentimento, non sono un mostro, dice. L'affare all'Italia si può concludere, il ministro Scajola dà l'ok alla vendita dopo che la CAI ha aumentato l'offerta da 1 miliardo a 1 miliardo e 52 milioni. I paradossi di Napoli, DVD di Gomorra distribuiti nelle edicole, ma il film tratto dal romanzo di Saviano non è ancora in vendita in Italia. Si tratta di copie pirata prodotte nei vicoli controllati dalla Camorra. E beh, certamente quest'ultimo è un paradosso non da poco, anche se abbastanza prevedibile. Questa sera il nostro ospite è il professor Giuseppe Ferrera, che è un nostro ascoltatore molto puntuto, molto, molto efficace, anche con le sue idee, naturalmente in alcuni casi molto diverse dalle mie, ma insomma ci fa molto piacere ospitarlo questa sera. È un professore dell'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferrari, in provincia di Messina, istituto tecnico, no Ferrera? Che istituto è? No, è un istituto professionale per l'industria, l'artigianato. Allora, sentiamo... Istruzione professionale. Istruzione professionale. Andiamo a sentire Giancarlo da Roma. No, Giancarlo da Roma non c'è più. Carlo da Milano o Gianluca da Lucca? Iniziamo con Gianluca. Gianluca. Pronto? Sì, dica. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Ecco, io, al contrario di quello che diceva il suo ospite, sono a favore del ponte sullo stretto di Messina, perché penso che sia proprio l'infrastruttura, in questo caso una grande infrastruttura, possa essere un volano per rifare decollare il sud d'Italia, cioè far decollare il sud d'Italia, perché io ad esempio paragono, sono in una zona marginale della provincia di Lucca, però paragono quando è stata fatta l'autostrada Genova-Livorno, dove soprattutto sì. La parte che riguarda la Liguria era all'epoca un'opera molto importante, molto costosa, molto dispendiosa, e all'epoca non c'era nei paesi limitrofi, non c'era in molti paesi, non c'era l'acqua, mancavano infrastrutture, c'erano carenze di tutti i tipi. Però secondo il mio punto di vista è proprio grazie a quella grande infrastruttura che poi diciamo così è decollato tutto l'indotto adiacente, e si sono anche completate altre strutture, perché secondo il mio punto di vista uno dei modi per fare decollare il sud d'Italia è quello proprio di realizzare delle infrastrutture, ma non magari facendo delle opere che poi non si sa dove vanno a finire, ma proprio riuscendo a farle. Ecco, forse quello è il problema più grosso che possono avere. Beh, sono d'accordo con lei Gianluca, perché naturalmente si parla da tanto tempo, per esempio, di rimettere a posto tutte le strade in Sicilia e in Calabria, e poi alla fine non si fa assolutamente nulla, i fondi vengono stanziati, poi vengono dirottati, eccetera eccetera. Prima di tornare al professor Ferrera, andiamo a sentire Carlo da Milano. Carlo, prego. Pronto, buonasera. Dica. Dottor Crociani, senta, volevo ritornare un attimo sul tema di La Torre, perché del pizzino persona... di La Torre, pare che ci sia una resa dei conti all'interno del Partito Democratico, i dalemiani che dicono ci vuole un chiarimento politico dopo le dimissioni di La Torre dalla commissione di vigilanza Rai. Credo che si sia dimesso poi ufficialmente La Torre questa mattina, addirittura l'aveva annunciato già in un'intervista al Mattino. Guardi, questo mi fa anche piacere, peraltro le anticipo che sono un elettore di sinistra, quindi la cosa che più mi rammarica di queste situazioni è, non ritenendo La Torre uno stupido e pensando al fatto che hanno ritrovato poi il fogliettino, è il senso di impunità che accompagna dei comportamenti che non hanno nulla a che vedere con una qualsivoglia etica politica. Forse adesso è anche esagerato porre il problema in questi termini, però penso davvero che non sia volgare la Guzzanti, siano volgari personaggi che si permettono di comportarsi così, come si è comportato l'onorevole La Torre, come hanno fatto altri in altre circostanze di qualunque colore politico. Scusi, ma che cosa ha fatto di strano e di così scandaloso l'onorevole La Torre? Perché ancora non l'ho capito io, mi perdoni. Lei è scandalizzato dal fatto che La Torre in una trasmissione televisiva passi un piccolo bigliettino, poi impropriamente chiamato pizzino, a un suo collega che non è un nemico, non è che sta dall'altra parte con il casco e con le mitragliette, è un collega, un politico, insomma, con cui bisogna anche collaborare. Naturalmente poi c'è una battaglia politica in corso sulla vigilanza Rai e tutti capiamo la situazione, e passa un biglietto in cui dice, beh insomma, Pecorella, io non lo posso dire, ma insomma il caso di Pecorella alla Corte Costituzionale, insomma, offre uno spunto, un argomento a Bocchino. Possiamo ridere naturalmente, ma cosa c'è di strano, cosa c'è di così scandaloso? Ma ecco, la cosa che più mi stupisce, le dico la verità, è che alcuni, e lei è una persona certamente intelligente, o non voglia cogliere o non vuole, non riesce a cogliere il fatto che non c'è un collega, c'è un soggetto dell'opposizione, e in questo momento La Torre non fa altro che aiutare un personaggio dell'opposizione a gestire un momento di criticità che Bocchino ha con uno che era un ex alleato, se vogliamo, di La Torre stesso. Io trovo, da questo punto di vista, che il comportamento è del tutto fuori luogo. Poi ovvio sono tutti colleghi, perché chi fa politica... No, ho capito perfettamente da questo punto di vista, Carlo, vista dall'ottica, diciamo, del Partito Democratico, non dico che sia la sua ottica, naturalmente il comportamento di La Torre è pessimo, però a me la cosa che ha colpito di più sono le frasi iniziali di quel bigliettino, di quel pizzino, cioè io non lo posso dire. E perché invece non lo può dire? Perché non c'è la libertà di parola, di giudizio su questa vicenda qui? Perché bisogna per forza allinearsi a quello che dice un partito? Se La Torre pensava che l'argomento di Pecorella, nome diciamo respinto dall'opposizione per la Corte Costituzionale, fosse un buon argomento, perché non doveva utilizzarlo? Invece lo offre a un suo avversario politico. Allora io vorrei capire dal professor Ferrera se ha seguito questa storia, che certamente è tutta politichese, del pizzino di La Torre. Stamattina, guardi, siccome il mio libro ero proprio davanti alla televisione, stavo guardando il programma Omnibus. Ah, per cui l'ha visto in diretta, sì, questa sceneggiata del pizzino. L'ho visto in diretta, sì, ho visto Polito che poi lo piegava, se lo metteva in tasca alla fine. Sì, ho visto tutta la... Cosa le è sembrata? Una messa in scena? Una cosa... Io, guardi, ho molta stima per l'onorevole D'Alema, che credo che sia un politico abbastanza intelligente, un uomo politico abbastanza capace. Però che c'entra D'Alema in questo caso? Perché è un uomo di D'Alema. Io non ho mai sopportato nei politici l'incapacità di assumersi le responsabilità. Però sentiamo male, professor Ferrera, per cui la richiamiamo subito, perché c'è un disturbo sulla linea telefonica. Alle 20:20 volevo che Carlo concludesse il suo intervento. Carlo. Sì, grazie. Innanzitutto mi fa molto piacere quanto lei ha affermato prima dell'interruzione, ossia è proprio l'accento su quella premessa che fa capire che c'è un senso malcelato di colpa, evidentemente, perché è verissimo quello che dice lei. Se ne avessero parlato apertamente, si sarebbe sciolto. Non ci sarebbe stato bisogno del pizzino. Non parleremo oggi di questo. Ed è vero, attenzione, quello che stava dicendo il professore, è evidente che qui il brutto schema è legato al ruolo di D'Alema come persona che sta dietro evidentemente alla Torre e alle tensioni intestine tra D'Alema e Veltroni. A me veramente da lettore di sinistra l'unico augurio che faccio e che mi auguro in tutti i modi è che le primarie siano una realtà nella prossima tornata elettorale, perché solo così, e si dovevano fare anche prima, mi lasci dire, se funzioneranno, insomma, i cittadini potranno esprimersi e spero ci sia un minimo di memoria storica. Poi, per l'amor di Dio, ognuno metterà sul terreno tutte le sue capacità, le sue sì, politiche, però voglio dire, bisogna partire, a mio avviso, dal basso. Se lo facesse anche la destra ne sarei ancora più contento. La ringrazio. Io credo che poi, alla fine della trasmissione di questa mattina Omnibus, il direttore del Riformista Polito ha detto un'altra cosa che secondo me è assolutamente corretta e che riguarda il problema all'interno del Partito Democratico, dove ci vuole evidentemente un vero congresso con delle mozioni, con una maggioranza e con un'opposizione. E si decide poi quello che vuole la maggioranza. Questo succede in tutti i partiti. La linea di Blair in Gran Bretagna per tanti anni non è stata contestata, diciamo, apertamente, però c'erano diverse correnti, chiamiamole così, all'interno del Partito Laburista, c'erano ancora quelli di sinistra, eccetera, però c'era una maggioranza blairiana, blairista, che guidava il partito, ha fatto le sue scelte e su quelle scelte il partito andava dietro, come è normale che sia in tutte le democrazie. Ferrera, allora. Sì, qualcuno ha aggiunto stamattina, mi pare Panella fosse Carlo Panella, aggiunto, sì. Perfetto, si è aggiunto che era anche un problema, come dire, una sorta di residuo del vecchio Partito Comunista. Il centralismo democratico. Perfetto, il famoso centralismo democratico. Per cui no, io credo che le cose non stiano esattamente così, perché il PD non è certo il PC di 30 anni fa, assolutamente. Io credo che ci sia una sorta di voler lavorare, fra virgolette, sotto, non esporsi ancora, per poi successivamente, magari all'interno del partito, cominciare a distinguersi successivamente. Io credo che sia il momento invece di distinguersi. Se l'onorevole La Torre pensava e pensa che Pecorella andava bene per la Corte Costituzionale, lo poteva dire benissimo. Apertamente, non, certo. Non penso che sarebbe successo nulla, anzi, credo che sia peggio così, dare l'impressione che si lavori sotto per chissà quale cosa magari. Assolutamente, su questo sono d'accordo con lei. Invece sull'ascoltatore che ci parlava di Messina, come il ponte Messina, come possibile, guardi, volano, il ponte come possibile volano economico? Ribadisco che non sono come principio contrario al ponte. L'ascoltatore trascura un fatto, che la sua autostrada, mi pare che fosse Lucca, insomma quella sulla Tirrenica, se ho capito bene. No, veramente quella Tirrenica è un'altra delle autostrade che non si fanno, ma comunque insomma sì, quella della Liguria, diciamo. Perfetto, ma voglio dire, univa delle realtà il centro Italia con la Liguria, col Piemonte, con la Francia, cioè univa delle realtà sviluppate economicamente in cui le infrastrutture sono importantissime, certo sono importanti anche da noi, che poi in Toscano o dalle altre parti mancasse l'acqua, insomma mi sembra un po' una forzatura dell'ascoltatore. Da noi manca veramente, cioè ci sono paesi che hanno l'acqua, ci sono le ferrovie che non funzionano. Però con questa teoria, professor Ferrera, si costruiscono le autostrade solo dove c'è progresso. No, io non sto dicendo questo, io sto dicendo che prima qual è o i ponti, naturalmente. Allora, un traghetto per attraversare lo stretto di Messina, se si piglia quello che c'è in città o quello fuori, ci mette dai 20 ai 40 minuti. Sì. Cioè noi per guadagnare poi 10 minuti, un quarto d'ora di traghettamento delle merci, non teniamo conto che ci mettiamo 3 ore e mezza per andare a Palermo. Allora io credo che sia molto più importante prima fare la ferrovia, completare le autostrade, fare tutto quello che c'è dal punto di vista, e poi fare il ponte, non il contrario. Io non credo che costruire il ponte voglia dire poi di per sé raddoppiare il binario sulla Palermo Messina o sulla Messina Catania, assolutamente, o portare l'acqua. Beh, però è quasi inevitabile dal punto di vista delle infrastrutture che porti necessariamente a un completamento delle infrastrutture, altrimenti resta. E qual veramente è il senso poi quando c'è la Salerno Reggio Calabria che ci vuole, che ha le calende greche, cioè è tutto un problema. Io credo che se si facesse un lavoro, come dire, prima di lavorare sul territorio e vedere, e poi successivamente completare tutte le, ma fatto seriamente, io non continuo a pensare che se si fanno degli investimenti, se che metterli sul ponte, si dice questi sono per la Messina-Palermo, punto, sì, per il raddoppio binario della Messina. Guardi che questo è avvenuto nella passata legislatura con una cosa piuttosto curiosa, poi passiamo agli altri ascoltatori, cioè i soldi per il ponte erano stati dirottati sulle opere minori, sì, e poi è arrivato l'onorevole Berlusconi, l'onorevole Tremonti, se li è riportati via. Alla copertura dell'ICI. Perfetto, erano stati dati alla città di Messina e di Reggio Calabria. Sì, però non erano arrivati, non erano ancora arrivati. No, non erano arrivati, erano stati assegnati dal governo Prodi, che poi non ha avuto il tempo per spenderli, o ci ha messo troppo tempo ad assegnarli, la solita burocrazia italiana. E subito dopo, però, è uno dei primi atti che ha fatto l'onorevole Tremonti è quello di rastrellare. Assolutamente, assolutamente. Lei è molto informato. La ringrazio. Resti con noi, per carità, non se ne vada. Mario da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io sono un borsista dell'Università di Milano. Sì. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa. Sì. Io le avevo detto che ho pochissima stima di questo governo, ma non mi sentivo neanche protetto da questo movimento studentesco delle università. Adesso non ricordo, comunque dica, che ci deve dire? La volevo aggiornare, cioè volevo darle una notizia, magari sì, può essere interessante, che non ho sentito rimbalzare nelle radio, nei giornali. Nature, la rivista scientifica, sì, ha pubblicato un editoriale. Nature è abbastanza attenta sulle riforme che avvengono nei diversi paesi del mondo, riforme nell'ambito della ricerca. Sì. E ha pubblicato un editoriale che dice sostanzialmente che la riforma Gelmini. Quale riforma, innanzitutto? Si riferisce in particolare, non ovviamente alla riforma scolastica, ma ai sistemi di reclutamento dei ricercatori e dei professori, sì, che sono stati leggermente modificati. Sì. Almeno questa era la mia impressione. Nature conferma questa cosa in questo editoriale e dice che si esprime così: ci sono stati dei minor changes, quindi dei minimi cambiamenti. Sì. E poi dice che l'unico effetto che avrà questa modifica dei sistemi di reclutamento è quello di ritardare di 3 mesi i concorsi, ma non cambierà nient'altro. Ma guardi, io la ringrazio di questa segnalazione, Mario. Ho letto ieri sulla Voce un intervento del professor Giavazzi, altri interventi qua e là su internet su questa vicenda dei concorsi, che certo non vengono rivoluzionati, non c'è dubbio, dalla riforma Gelmini, però mi sembra che anche economisti, specialisti che di solito non hanno risparmiato critiche al governo e che comunque cercano di avere un approccio realistico, un approccio pragmatico alle cose che accadono, non sono certamente ideologici, abbiano detto che insomma qualche novità anche interessante dal punto di vista del reclutamento, il sorteggio dei professori eccetera eccetera c'è stato. Non sarà la rivoluzione, per esempio non si affronta seriamente la questione del valore legale del titolo di studio, da questo punto di vista non c'è dubbio, però qualcosa si muove. Sentiamo prima l'ultimo telegiornale, TG2. Obama nel mirino di Al-Qaeda, minaccia e insulti farneticanti da numero 2 al-Zawahiri. Sei un nero al servizio dei bianchi ed Israele, hai tradito le origini islamiche. Sì dal governo all'offerta CAI per Alitalia a non meno di 1,052 miliardi di euro. Il commissario Fantozzi è autorizzato a procedere alla vendita. Anche l'Unione Europea pronta a sostenere le sue industrie automobilistiche colpite dalla crisi, Marchionne e Fiat. Nessun dislivello con l'America, aiuti per tutti o per nessuno. Erba, torna a parlare Olindo, mai rivendicata la strage nella perizia psichiatrica, mi sono immedesimato nell'assassino. Asus chiede un maxi risarcimento. In come figlio sedicenne del pregiudicato ucciso in un agguato in Calabria, il ragazzo colpito da proiettili alla testa, la mamma di un bambino ferito mesi fa, assassini senza scrupoli. Incredibile ma vero, in Germania un detenuto riesce a fuggire con l'aiuto della posta. Si è infilato in un grosso scatolone con tanto di mittente e destinatario e si è spedito a casa sua. Bene, questi erano i titoli del TG2. C'è un ascoltatore che mi scrive un SMS molto, molto arrabbiato. Non minimizzi, come fa sempre ultimamente, l'Italia non è un paese come gli altri, siamo un paese che ha avuto una dittatura fascista, in Germania l'apologia del nazismo è un reato penale. Vi ascolto ancora, ma presenterò una protesta ufficiale al direttore Fabrizio da Modena. Credo che si riferisca Fabrizio alla vicenda dei 99 fosse. E guardi, cosa vuole che le dica, scriva tutte le lettere che vuole, certo non mi spaventa questa cosa, perché non ho minimizzato per niente, ho detto che sono delle cose gravissime, delle cose vergognose quelle che sono state scritte, ho semplicemente detto che non voglio dare troppa importanza a queste cose, dunque bisognerebbe parlarne poco, non dare risalto e soprattutto non intervenire dal punto di vista legislativo. Non capisco quali leggi bisognerebbe fare contro la diffusione su YouTube di queste canzoni. Se ci sono dei reati, intervengano i giudici, e ci sono evidentemente forse dei reati di apologia, di istigazione all'odio razziale, intervengono i giudici, la magistratura, punto e basta. Dove andiamo? Andiamo a sentire Maurizio da Perugia. Buonasera. Maurizio, buonasera. Buonasera. Io volevo soltanto dire che sono assolutamente d'accordo con lei quando dice il sette episodio, quello del gruppo di idioti che si è messo su YouTube. Maurizio, non sentiamo nulla e allora andiamo a sentire un altro ascoltatore da Napoli, Andrea. Pronto? La sento Andrea, dica. Eccoci, buonasera. Io prima vi ho persi perché ho lasciato l'auto, credo qualcuno abbia parlato dell'episodio di La Torre e Bocchino. Assolutamente sì. Qual è la sua opinione? No, la mia opinione, io stamattina, da puro dilettante quale sono, scrivevo un pezzo per una testata delle mie parti, mi ritiravo perdendo dignità usando le due lettere del Partito Democratico, perché credo che nel gioco della torre, Villari, Orlando, forse dalla torre devono buttare giù la torre, nel senso che è veramente qualcosa di indecoroso. A meno che da persona di sinistra, da persona molto lontana dal nostro premier che fa cucù, io pensavo che può darsi che, essendo assolutamente incompatibili le due situazioni, Orlando Pecorella, chissà che la torre non abbia voluto mettere in difficoltà che è accaduto con un bambino, nel senso che lo abbia esposto ad una risposta assolutamente che non sta né in cielo né in terra, perché come tutti sanno le due situazioni sono assolutamente incomparabili, il passo indietro del PDL non è non ha nulla a che vedere con la questione di Orlando, secondo me. Non so lei cosa ne pensa. No, la penso in maniera diversa. Credo che invece da un punto di vista di metodo, e poi alla fine è quello che è successo, perché c'è stato un passo indietro di Orlando che non è più, o comunque Orlando non sarà il presidente della commissione di vigilanza Rai. Ci si poteva arrivare da parte del Partito Democratico in maniera più rapida, e anche da parte di Pietro, che evidentemente voleva tenere il punto per motivi politici. Tutto qui, le situazioni certo che sono diverse, ma il metodo è lo stesso. Ci vuole una condivisione su certi nomi, e sul nome di Orlando non c'era condivisione, come non c'era condivisione sul nome di Pecorella, che è stato ritirato e al suo posto è stato messo un altro nome, un'altra persona. Professor Ferrera, di nuovo su questo argomento torniamo. Dunque, mi pare che ci sia, se non ricordo male, su questo mi corregga se sbaglio. Comunque, Pecorella mi pare che è stato ritirato il nome perché avesse un qualche procedimento in corso. Ma non è per questo, è perché il PDL non era nemmeno troppo convinto di questo nome. Pronto? Sì, la sento. Dico, mi pare che ci fosse, o almeno era stato tirato in ballo un qualcosa del genere. Cioè, sì, una era indagato a Brescia nell'ambito della vicenda Zorzi. E quindi non c'era, come dire, da un punto di vista formale anche, oltre che, insomma, era un qualcosa che, anche se sono d'accordo con lei, cioè poi era una questione solo di tattica politica, insomma, noi l'abbiamo ritirato, ritiralo pure tu. E lì c'era il Di Pietro, insomma. Sicuramente l'onorevole Di Pietro ne ha fatto una bandiera, insomma, assolutamente una bandierina, insomma, non si doveva spostare. Secondo me sbagliando, torno a rivedere, lo condivido in tante cose, però a volte non piantare le bandierine, insomma, non è molto producente. Ma non sarebbe Di Pietro, lo so che lei ha una passionaccia per l'ex magistrato, per carità, assolutamente legittima, professor Ferrera. Non ho una grande passionaccia, le posso dire pure che non l'ho votato. E il mio problema è che mi sembra una persona onesta. Io se questo ha ancora un valore, dico nella politica, ma non solo nella politica, nella vita di tutti i giorni, se è ancora un valore, Di Pietro io lo reputo una persona onesta. Avrà commesso errori, ne ha commessi tantissimi, sia da magistrato che da politico, però fondamentalmente credo che la gente lo percepisca come una persona onesta. E bisognerebbe capire naturalmente la categoria dell'onestà applicata alla politica, insomma, bisognerebbe fare un ragionamento molto più ampio, non abbiamo il tempo. Marco da Pavia per concludere. Sì, pronto, buonasera. Pasquale da Matera, Janus da Lecco, mi dispiace ma dobbiamo rimandare a domani. Marco, conclusione, pochissimi secondi. Niente, io intervenivo riguardo l'intervento di ieri Berlusconi a Ballarò, che vabbè, lo reputo un po' fuori luogo, perché secondo me era meglio che non interveniva, visto che in questo periodo viene attaccato per tutto e con tutto, e soprattutto a Bersani che gli chiedeva di avere un dialogo. Io mi ricordo che quando loro hanno governato con due voti in più, il dialogo non l'hanno mai cercato, sono andate avanti a colpi di maggioranza. Cioè il centro-sinistra, lei dice. Marco, riprendiamo questo discorso domani, la ringrazio. Io volevo ringraziare il professor Ferrera di essere stato con noi, grazie. No, io ringrazio a lei. Buona serata. Buonasera. Non c'è problema. Fa parte della dialettica. Assolutamente. Non l'ho chiamata apposta, ma perché mi sembra che la dialettica con lei possa funzionare. Un ascoltatore mi scrive: Pecorella, caro Cruciani, era indagato, come se essere indagati è una sorta di condanna definitiva. Non è così, per fortuna non è così. 20:42, siamo in ritardo, ci sentiamo domani alle 18:30. La Zanzara.